Focus Economia. Con Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms come sempre. Di cosa parleremo oggi? Beh, fatemi iniziare oggi dai mercati e poi la questione che affronteremo come sempre con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, perché come già vi accennava il nostro giornale radio, oggi le cose vanno particolarmente bene. C'è in parte il rimbalzo dopo la caduta di ieri in seguito alle parole di Draghi, dall'altra parte c'è un buon dato sulla disoccupazione americana che spinge i listini e complessivamente evidentemente si percepiscono in questa giornata maggiori segnali di fiducia, più 3,16% in questo momento il FTSE MIB, più 2,8% il FTSE All Share. A guidare la fila ci sono i bancari con Intesa che guadagna, Intesa San Paolo, il 6,28%, UbiBanca il 5,93%, Popolare Emilia Romagna il 5,33%, ma anche qualche industriale, Fiat Chrysler guadagna il 5,18% e sale sopra quota 11 euro, un livello che non si vedeva dal 2000. Quindi bene oggi i mercati, tra l'altro con l'euro, o meglio il dollaro che scende, o meglio l'euro che scende, scusate, e ci vogliono 1,2292 dollari per comprare un euro contro l'1,24 che vi abbiamo ampiamente raccontato ieri. Su questo arriveremo più tardi, appunto, come sempre, con i colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore, per il commento. In apertura di trasmissione verremo all'inchiesta di Roma. Ce ne occuperemo naturalmente a nostro peculiare e particolare punto di vista, perché non vogliamo scendere tanto nel dettaglio dell'inchiesta e dei meccanismi tramite quelli puramente criminali, e nemmeno tanto sulle mazzette, sulle dazioni di soldi, quanto appunto sui meccanismi che hanno permesso di arrivare a tutto questo, ossia molto semplicemente come vengono assegnati gli appalti in determinati casi, che in determinati casi comportano evidentemente una discrezionalità eccessiva e una carenza di trasparenza. È il caso dell'affidamento diretto, il famoso schema: c'è un'emergenza, non faccio in tempo a fare la gara, vado per affidamento diretto, ed è un'opzione che naturalmente si presta alla possibilità di corruzione da parte del funzionario o del politico. Questo è un elemento. L'altro elemento è che non si può fare necessariamente a meno e sempre dell'affidamento diretto. Pensate solamente ad un comune nel quale si apra una voragine in una strada, tra il tempo che istruisce la gara, che appunto la mette a gara, che fa presentare i progetti, nel frattempo la strada resta chiusa. Evidentemente in questi casi non si può fare. Ci sono delle previsioni da questo punto di vista comprese all'interno dello Sblocca Italia, e però c'è una cultura europea dal lato degli appalti che si sta evolvendo sensibilmente, un tipo di evoluzione che in questo paese sta faticando a prendere piede, se non in una serie di amministrazioni sicuramente virtuose. Quindi il tema è come far sì di prevenire, cioè invece di far arrivare Pignatone con la sua inchiesta possente sulla mafia a Roma, fare in modo che la corruzione, se non ci sia, perché forse eliminarla completamente è impossibile, di certo cercare di limitarla il più possibile. Di questo parleremo, così come parleremo del rapporto Censis. Avete sentito poco fa nel giornale radio la voce del presidente del Censis, Giuseppe De Rita. Ebbene, commenteremo questo rapporto che ci racconta, tra le altre cose, ci dà un quadro generale sulla situazione del paese, come sempre avviene, ma ci racconta in particolare dello spreco di capitale umano e quindi di persone che sta effettuando il nostro paese. Tutto questo tra poco. Il 349-238-6666 per i vostri sms, come sempre, le notizie in breve di oggi. Sì, poi lo dico a Franco da Milano, che chiede di parlare anche un po' delle cooperative rosse di Roma. Se volete, anche quello è uno dei temi, potremmo anche affrontare il tema delle cooperative. Non è quello che vogliamo fare esattamente oggi, ma non perché, perché ci nascondiamo dietro questo tema. È semplicemente perché vogliamo concentrarci sul meccanismo, ed è un meccanismo che non riguarda solamente le cooperative. Attenzione, perché guardate per esempio tutta la vicenda del MOSE, tutto quello che è uscito dalla vicenda del G8. Il tema è sempre quello: emergenza, non gara ma affidamento diretto, e dietro questo si nascondono dei pericoli e una necessità evidentemente di maggiori controlli e di maggiore trasparenza. Poi possiamo raccontarci anche, giustamente, ne parleremo tra un attimo, che anche le gare possono essere pilotate, non è che... L'oro innanzitutto giù dell'1,1% a 1194 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, anche oggi una giornata di cali. Il WTI, quello quotato a New York, giù dell'1,86% a 65,5 dollari al barile. Il Brent in calo di 1,5% a 68,5 dollari al barile. Il dato sulla disoccupazione americana si diceva stabile al 5,8%, a novembre sono stati creati 321.000 nuovi posti di lavoro, e un dato che supera di molto le attese degli analisti. Va bene la borsa americana, anche se non festeggia particolarmente, più 0,3% il Dow Jones, più 0,16 lo Standard & Poor's 500, il Nasdaq guadagna lo 0,29. Nulla a che vedere con i rialzi europei. La Banca Centrale Russa ha speso 1,9 miliardi di dollari solo il 3 dicembre per sostenere il rublo. Lo fa sapere lo stesso istituto, che dopo aver deciso di lasciare oscillare la moneta liberamente si è riservato il diritto di intervenire in caso di minacce alla stabilità finanziaria. In totale quest'anno Mosca ha speso circa 70 miliardi di dollari a questo scopo. Notizie a due facce arrivano dalla Germania, dove mentre gli ordini di fabbrica sono in aumento oltre le stime, il dato di ottobre fa segnare un più 2,5% a fronte di una crescita stimata dello 0,5% da parte degli analisti. La Bundesbank ha tagliato le stime sulla crescita per il 2014, si prevede un più 1,4% quest'anno, un più 1% nel 2015, quando la scorsa estate le previsioni erano dell'1,9% e del 2% rispettivamente. Quindi le previsioni sono state tagliate, per chiarire, di mezzo punto percentuale per quest'anno, che praticamente è finito e quindi è una previsione molto attendibile, e di un punto percentuale addirittura per il 2015. Allora, a proposito della Banca Centrale Europea, secondo quello che riferisce il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, la BCE nel meeting di ieri ha parlato di un programma di acquisto di bond con un ammontare superiore ai 1.000 miliardi di euro. Mentre parla il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, dice la politica monetaria della BCE è correttamente espansiva e aggiunge: non condividerei l'idea che la politica monetaria abbia esaurito i suoi strumenti di intervento. Oggi tra l'altro il ministro dell'economia Piercarlo Padoan era a Francoforte, a lui si è rivolto il suo omologo tedesco Wolfgang Schäuble, che gli dice: non vorrei essere nei suoi panni. e ho molto rispetto per quanto ha fatto finora l'Italia. Va nella giusta direzione. Lo stesso Padoan difende l'Italia francoforte. A una domanda se sia sostenibile il debito italiano dice di sì. Parla anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che parla dei rischi per il debito italiano che derivano dalla deflazione. Se si hanno variazioni dei prezzi così basse o negative, le conseguenze possono essere gravissime per le economie con un debito pubblico molto alto come l'Italia. E ancora ha parlato della possibile manovra della BCE, dice: nell'acquisto dei titoli di Stato da parte della Banca Centrale c'è un conflitto di regole europee di cui bisogna discutere apertamente, ossia tra il mandato dato all'Eurotower sulla stabilità dei prezzi e il vincolo a non finanziare monetariamente gli Stati. Che è il problema nel quale si dibatte nello stesso direttivo, probabilmente. Intanto lo spread, la differenza di rendimento tra i BTP italiani e i Bund tedeschi a 10 anni, è sceso sotto la soglia dei 120 punti base. Poi, sempre dall'Italia, ci sono i dati diffusi oggi dall'Istat a proposito delle pensioni. Nel 2013 la spesa è aumentata dello 0,7% rispetto all'anno precedente, l'incidenza sul PIL è cresciuta di 0,22 punti. Sono 16.400.000 i pensionati, 200.000 in meno rispetto al 2012, con un assegno medio di 16.638 euro. Il 41% ha un reddito sotto i 1.000 euro al mese. Oggi, tra l'altro, il ministro Madia, a proposito di pensionati, ha firmato la circolare sui divieti per incarichi a pensionati della pubblica amministrazione, misure con le quali che cosa si vuole fare? Si vuole evitare che siano dati incarichi esterni a persone che si sono pensionate dalla pubblica amministrazione. Dice Madia che in questo modo infatti si aggira l'istituto della quiescenza, ossia della pensione, della fine del lavoro, e si bloccano i più giovani. A proposito di giovani, molto se ne occupa il rapporto del Censis, ci verremo più avanti nella seconda parte della trasmissione, tanto in parte avete già sentito qualcosa dal giornale radio. Intanto veniamo ai 100 secondi dell'economia in collaborazione con RDS, realizzati da Radio 24 e Sole 24 Ore. Oggi Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, ci parla della norma sul rientro dei capitali. Scopri le automatiche Saeco, con macine in ceramica per offrirti in ogni momento il tuo espresso autentico. Saeco regala Pellini. Regolamento su philips.it/promozioni. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Pochi minuti dopo il voto finale alla legge che consente di riportare in Italia i capitali illegalmente detenuti all'estero, sui media e sulla rete si è scatenata ieri una polemica per l'arrivo di un nuovo condono fiscale. Poi è intervenuto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che ha detto: no, attenzione, il rientro dei capitali non è un condono, nulla di paragonabile agli scudi fiscali fatti tra il 2001 e il 2009. Cerchiamo allora di capire se con questa procedura si sta davvero facendo un regalo agli evasori. Il primo aspetto: il rientro dei capitali ripropone un metodo che si chiama voluntary disclosure, che è definito a livello internazionale e che è stato utilizzato in moltissimi paesi, per esempio anche in Germania. Secondo aspetto: chi regolarizzerà le somme di denaro che detiene illegalmente all'estero dovrà pagare in Italia tutte le tasse per gli anni che sono ancora accertabili del fisco, dovrà poi pagare le sanzioni, seppure con uno sconto, e gli interessi. Terzo aspetto, chi farà il rientro dei capitali non potrà essere generalmente condannato penalmente, e questo forse è il beneficio più rilevante per questa procedura, che altrimenti prevederebbe pene significative. L'operazione funzionerà? Beh, probabilmente sì, perché ci sono accordi tra i paesi che renderanno presto possibile per il fisco italiano trovare chi detiene illegalmente soldi all'estero, anche in alcuni paesi come ad esempio la Svizzera, dove in passato gli evasori potevano dormire sonni tranquilli. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it. Ed eccoci al primo tema di questa giornata. Intanto fatemi dare un'informazione, poi ci arriveremo. Ci chiedete perché Saipem va giù del 6,5%, perché ha annunciato la sospensione del progetto South Stream, e non si sa esattamente se questa sospensione vuol dire una fine del progetto oppure no. Molti vostri messaggi già sul tema degli appalti e del... Come fare per evitare di trovarsi di fronte a casi di corruzione come quello che stiamo vedendo a Roma, ed è il tema che andiamo ad affrontare adesso. C'è chi ci parla, dice, non è un problema di regole, è un problema di cultura diffusa dell'illegalità. Luca, abbia pazienza, ma non vuol dire niente, e comunque, dato che la cultura non la modifichi se non in un lungo periodo di tempo, anche se fosse questo, dobbiamo trovare il modo di prevenire. Perché poi avete ragione voi a dire che probabilmente questa gente non si fa, quando viene condannata, non si fa abbastanza carcere, esce presto e così via. Poi bisognerebbe vedere i numeri. E però è vero anche che nel frattempo l'atto corruttivo è stato fatto, è successo che sono stati sprecati dei soldi pubblici, sprecati soldi delle aziende che avrebbero potuto più utilmente investirli in altro. Quindi meglio prevenire che curare, come diceva la pubblicità. Gustavo Piga, docente all'Università di Tor Vergata a Roma. No, ma è caduta la linea, mi dicono. Va bene. Allora, riassumiamo tutto brevemente. La bufera giudiziaria su Roma la conoscete, l'inchiesta Mondo di Mezzo, arrestate 37 persone, iscrizione nel registro degli indagati di altre 100, tra i quali Gianni Alemanno, ex sindaco della capitale. I reati contestati: associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura, riciclaggio, turbativa d'asta, false fatturazioni, 200 milioni di euro il valore dei beni sequestrati. Gustavo Piga dell'Università di Tor Vergata a Roma, eccoci, l'abbiamo ritrovata. Buonasera, come sta? Buonasera, tutto bene. Allora, sì, già si discute con gli ascoltatori su questo tema, cultura diffusa dell'illegalità, piuttosto che necessità di regole diverse, soprattutto nell'affidamento degli appalti e dei servizi. C'è uno schema che ricorre, non solo in questo caso: emergenza, non posso fare la gara, vado con l'affidamento diretto. Dietro l'affidamento diretto può nascondersi la corruzione, come no, evidentemente. C'è qualcosa che possiamo imparare innanzitutto, Piga, dal contesto europeo per capire come si stanno orientando gli altri? Assolutamente sì, nel senso che la direttiva europea sugli appalti è stata appena approvata dal Parlamento europeo, nel giro dei prossimi 2 anni dobbiamo recepirla, e già i tavoli si sono creati nei vari ministeri in Italia ma in tutta Europa per decidere quali saranno le nuove regole che governeranno gli appalti. E devo dire che il messaggio forte e chiaro che viene dalla nuova direttiva va apparentemente in totale controtendenza a quanto stiamo discutendo in questi giorni in Italia, perché poggia tutto sulla maggiore discrezionalità da dare alle stazioni appaltanti. C'è un'enorme fiducia che viene data. E perché viene fatto questo in Europa? Perché mentre noi stavamo assolutamente fermi, non considerando che la questione degli appalti pubblici è questione chiave della politica industriale di un paese, io ricordo soltanto che gli appalti pubblici cubano circa il 18-20% del PIL, cioè il 35-36% di tutta la spesa pubblica, e quindi ogni paese che si rispetti si dà da fare per decidere come fare gli appalti. In questi anni tutti i paesi europei hanno fatto un enorme investimento proprio in nome di questi numeri così alti nella riorganizzazione della funzione del public procurement, centrandola attorno alla questione delle professionalità, enorme investimento nelle professionalità, enorme investimento nei dati per misurare le performance, enorme remunerazione di questi gestori delle stazioni appaltanti, perché se fanno bene il loro lavoro danno un vantaggio a tutto il paese che è 10 volte quanto li paghiamo. Sì, in più se gli dai uno stipendio alto, evidentemente sono meno tentati dall'eventuale corruzione, no? Ma questo non pare essere un'urgenza né di questo governo né, devo dire, dei governi passati, e ci troviamo in questo momento con questo. Io devo dirle una cosa, si parla tanto di riforme in Italia, ho sempre detto che la riforma numero uno passava proprio per la riforma degli appalti pubblici, ma mi lasci dire una cosa, oggi queste sono giornate tristissime per un italiano, perché se lei fosse un ragazzo di 18 anni e leggesse quello che lei legge sui giornali con questo sistema teorizzato in maniera perfetta della terra di mezzo che ha una sua credibilità, io se fossi un giovane farei due cose: o andrei nella terra di mezzo facendo un errore terribile, ma visto che è il sistema vincente, o me ne andrei via da questo paese. Questa è diventata un'emergenza nazionale perché sta devastando il nostro paese. Quindi, e siccome avviene negli appalti pubblici, è tempo che il governo risponda all'interno come unica riforma, altro che Job Act, questo vale 100 Job Act, la ripresa in mano di tutto questo. Il Cantone ha 12 dipendenti che fanno anticorruzione, l'autorità di anticorruzione di Hong Kong ce n'ha 1200, e quindi le dico anche che non è solo un problema di competenze e professionalità, è anche un problema di controlli, non voglio svicolare, sì. Ma è un paese che non capisce che tutto questo va affrontato in maniera organica, con un grande disegno e una grande volontà soprattutto da parte del Presidente del Consiglio. Sì, questo è un punto interessante. Insomma, lei parla della necessità di una riforma organica. Vorrei capire se c'è un ruolo in tutto questo proprio nel tema che si diceva, affidamento diretto versus gara. Cioè già innestare nel sistema dell'affidamento diretto, che non può essere escluso soprattutto per le questioni che sono veramente di emergenza, penso appunto alla sistemazione di una strada, ai danni dopo un'alluvione, non a caso la vicenda del Bisagno a Genova ce l'ha dimostrato perfettamente. Se c'è un modo, secondo lei, se può bastare la trasparenza di tutto questo, la trasparenza più completa per evitare fenomeni di questo tipo, quantomeno cercare di prevenirli. Allora, intanto per scoraggiare e prevenirli lei deve avere dei meccanismi che sappiano evidenziare là dove ci sono state storture. Se lei non ha il dato, i dati, se gli osservatori regionali del meridione trasferiscono i dati a Renzi con 2 anni di ritardo, cosa vuole che siamo capaci di fare? In Corea, in tempo reale, il primo ministro coreano vede chi compra che cosa, a quanto e perché, e in ogni singolo secondo può fermare una gara. Non tanto, qui stiamo attenti, quando uno vede che qualcuno compra a un prezzo più alto e uno compra a un prezzo più basso, la tentazione del giornalista è di dire: ah, vedi, chi compra a un prezzo più alto è quello che spreca. Non è vero, molto spesso la corruzione passa per un accordo dove io ti do cattiva qualità, mi becco la gara perché il prezzo è più basso, e molto spesso chi compra a un prezzo alto è la stazione appaltante competente che pretende qualità e non fa sconti sulla qualità. Però si alzano bandierine rosse se lei ha i dati. È un paese che, certo, non ha investito nemmeno un milione di euro per prendersi una grande azienda di consulenza informatica e fare al centro a via 20 settembre, dove sta il ministro Padoan, una banca dati come hanno tutti i paesi che si rispettano per fare questo. Questo ovviamente è una precondizione, non risponde completamente alla sua domanda, ma è ovvio che lei può fare più trattative dirette se lei ha evidenza, come ci sono in tutte le organizzazioni private e pubbliche che si rispettano, che quel fornitore è stato bravo. Allora, se lei ha la capacità di misurare la performance, ci possiamo anche forse preoccupare meno della trattativa diretta. È ovvio che in certe gare comunque la trattativa diretta non va fatta e vanno fatte le gare, ma la gara non è un toccasana, ti ripeto. Molto spesso con la corruzione vince la gara quello che fa il prezzo più basso, semplicemente perché si è messo d'accordo, come le dicevo, in anticipo. Non è la non è la legge che cambierà, non esatto, sono più regole. Quello che dico Piga è che non lo risolvi nemmeno non facendo, perché qua qualcuno ci dice il problema è il massimo ribasso. No, il problema non è il massimo ribasso, perché tu puoi anche, se sei un corrotto, ritagliare la gara secondo quello che vuoi che tu vinca, cioè metti delle caratteristiche, no, nel capitolato, nel bando di gara, che consentono che vinca solo quell'azienda. Sì, credo che quello che l'ascoltatore che le ha detto il problema è il massimo ribasso, forse stava dicendo che c'è bisogno di premiare di più la qualità nelle gare e dare più punteggio alla qualità e meno punteggio al prezzo, che in certi settori va bene, ma tutto questo richiede competenze. A volte delle gare vanno fatte al prezzo più basso, a volte delle gare vanno fatte con un mix, ma quello che è fondamentale è che ci sia a capo di tutte queste decisioni una serie di persone, non tantissime, e io non le parlo di fare un modello dove ci sia una sola stazione appaltante, la Consip, perché questa esperienza non la fa nessun paese al mondo e vorrebbe dire uccidere la piccola impresa, però le ricordo, anche come altro segnale di ritardo, che giace fermo da aprile il decreto che mappa come dovremmo ricostruire le stazioni appaltanti, solo nei beni e servizi, non nei lavori pubblici, una per ogni provincia, okay, che è abbastanza, media abbastanza le esigenze di efficienza con l'attenzione al territorio. Quel decreto doveva essere trasformato con decreti attuativi in 2 mesi, cioè a giugno. Siamo ancora fermi ad aspettarlo, questo dà il senso che questi problemi così importanti perché non sono al centro del dibattito delle riforme del paese? Perché è lì che comincia la scommessa, è lì che devi mettere gli investimenti, è lì che devi mettere le risorse, perché se lei paga 100.000 euro in più un bravo funzionario di una stazione appaltante, quello le porta 1 milione di euro di risparmi che poi lei può usare per fare più investimenti pubblici o minore tassazione. È tutto un modello che si rovescia, e questo vale sia per la corruzione che per l'incompetenza, che sono le due grandi piaghe del paese. Però le ripeto, è un paese che si sta veramente incartando su questo, e più si incarta più diventiamo tutti pessimisti, soprattutto i nostri giovani, e gli effetti non si limitano al mercato delle commesse pubbliche, diventa un paese da cui scappare. Quindi o prendiamo in mano questa questione degli appalti pubblici con forza, con dinamismo, credendo che questo è un paese che le cose le può fare senza corruzione e le può fare bene, le assicuro che ci sono tantissime persone nelle stazioni appaltanti oneste, brave, che non vedrebbero l'ora di essere messe in grande risalto e fare il loro lavoro bene. La ringrazio, grazie a Gustavo Piga anche per la sua chiarezza e per essere stato così netto, perché ci piace, sono tantissimi gli sms che stanno arrivando su questo, ne leggeremo qualcuno ma dopo la pausa. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia. Qualche sms, molti fanno i complimenti al professor Gustavo Piga dell'Università di Tor Vergata, che è stato ex presidente della Consip, che è la centrale di acquisto dello Stato, dovrebbe diventare sempre più importante. No Giuseppe, non penso che ci voglia erbaffone per un paio d'anni, a proposito di corruzione. Ne penso, lo dico ai molti ascoltatori che l'hanno scritto, quando Piga ha detto che l'autorità guidata da Cantone ha solo 12 dipendenti, non penso che la soluzione sia metterci forestali siciliani o calabresi. Con tutto il rispetto per loro, insomma, un lavoro un po' delicatino quello. Sul tema del pagare di più i funzionari pubblici, molti si lamentano su quello che diceva Piga. Alcuni ci scrivono: pagarli di più, ma se sono già i più pagati al mondo in una pubblica amministrazione che è la più inefficiente del mondo. Vede, qua il ragionamento è creare dei manager che si occupino di questo, cioè esattamente come un direttore acquisti di una grande multinazionale è quello che siede accanto all'amministratore delegato, così dovrebbe essere. Il grande tema, secondo me, che ha messo in evidenza Piga e che secondo me è quello veramente centrale, è il fatto che questo paese non lavora con i dati. Non sappiamo che cosa succede all'interno della nostra pubblica amministrazione. Le amministrazioni questi dati non li diffondono, non li mettono insieme, quindi non sappiamo che cosa succede. E vedete che nel momento nel quale avete sotto una serie di dati, si sa identificare anche l'anomalia e si sa capire dove andare a guardare, dove andare eventualmente a colpire. Non si capisce perché l'Agenzia delle Entrate abbia accesso a decine di banche dati che ci riguardano e non si possa sapere esattamente che cosa fanno le nostre pubbliche amministrazioni che noi paghiamo. A proposito di tutta questa vicenda, oggi effetto giorno, abbiamo intervistato Antonio D'Alessandro, che è presidente di un consorzio di cooperative sociali, si chiama Parsec Consortium, attiva nella manutenzione del verde. D'Alessandro denuncia come la loro attività si sia ridotta drasticamente al cambio di colore politico della giunta. Il nostro lavoro è sull'ambito del verde, quindi sulla manutenzione del verde, però noi abbiamo avuto dal 2009 al 2013 un crollo degli appalti dell'80%. In favore di varie strutture, non solo tra 29 e giugno. Un crollo del fatturato, a cosa lo imputa questo? A quello che sta emergendo dalle inchieste? Che cosa c'era dietro? Non sapevamo nulla, non immaginavamo una cosa del genere, che è devastante per tutti quanti quelli che operano nella cooperazione sociale. Però c'era qualcosa di strano, perché improvvisamente cooperative nuove venivano beneficiate di decine e decine di migliaia di euro di appalti, o si venivano avvantaggiate strutture che prima non esistevano dal punto di vista operativo. Lei ha fatto esplicito riferimento all'amministrazione Alemanno, e però sembra piuttosto evidente che il sistema di potere fosse piuttosto trasversale da questo punto di vista. Ne avete avuto qualche sentore? Perché poi la gente lavora con le amministrazioni pubbliche e di solito non so, qualcosa lo percepisce, magari non ha in mano le prove, hai solamente degli indizi, però insomma qualcosa sotto mano ce l'hai. Sinceramente no, perché quando noi abbiamo capito questo tipo di situazione abbiamo chiesto qual era il motivo e ci è stato detto che non eravamo vicini alla nuova amministrazione. Quanto pesa in tutto questo il sistema dell'affidamento diretto? Cioè si proclama un'emergenza, per così dire, e si procede invece che per gara pubblica per affidamento diretto. L'affidamento diretto naturalmente consente all'amministratore o al burocrate che in questo caso riceve o avrebbe ricevuto la mazzetta di affidare direttamente un lavoro. Pesa questo o ha poco a che fare, perché poi le gare magari invece si possono ritagliare specificatamente per quello che si vuol far vincere? Sulle emergenze c'è una vecchia tradizione, purtroppo basta ricordare il G8 della Maddalena, milioni di euro sono stati sprecati, sono stati utilizzati tutte quante la modalità dell'urgenza. Gli affidamenti diretti alle cooperative sociali invece servono a salvaguardare le persone che non avrebbero mercato nel mondo del lavoro. Traffico e poi quest'ottima giornata di borsa, più 3,41%, il FTSE MIB in chiusura, tra un minuto. Focus Economia. Ci scrive ancora anche Davide, dice che i dati sono il problema centrale, è vero, ma anche qui come abbiamo speso i nostri soldi? Male. Perfettamente ragione. Perfettamente d'accordo, per quanto conti naturalmente. FTSE MIB più 3,4%, FTSE OSHARE più 3,15%. Benissimo, i bancari, Intesa San Paolo più 7,05%, Popolare Emilia Romagna più 6,05%, UbiBanca più 6,01%, Banco Popolare più 5,75%. Va bene anche una serie di industriali come Buzzi più 5,62%, Finmeccanica più 5,5%, Fiat Chrysler più 5,18%. E poi è uno dei casi da analizzare in questa giornata. Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buonasera, ciao. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, mercati che in parte recuperano dopo lo scivolone di ieri, dopo Draghi, e dall'altra parte beneficiano di dati americani particolarmente positivi, anche se, Andrea, in realtà l'America non è che vada benissimo. Va bene, più 0,4 il Dow Jones, più 0,3 il Nasdaq, più 0,25 lo Standard & Poor's 500, però niente di paragonabile a quel che succede in Europa. Sì, certamente, diciamo che forse la forza dei dati statunitensi si è più riflettuta in questo pomeriggio nel, nell'andamento del dollaro, che ha scalato enormi posizioni nei confronti dell'euro, superando anche quota 1,23, scendendo quindi anche a un minimo di 1,2271. Ma comunque, come tu dicevi, le borse europee invece stanno reagendo molto bene. Diciamo che ieri era prevalsa forse la delusione di chi si aspettava quantomeno indicazioni più puntuali o qualche mossa già concreta dalla BCE, e che peraltro aveva preso invece la gelata di revisione al ribasso delle stime dell'andamento economico, ma anche dell'inflazione. Oggi le borse sono tornate invece a scommettere sulla BCE, sulla strategia di Mario Draghi, su un intervento massiccio che possa avvenire già a partire da gennaio. Gli acquisti si sono concentrati soprattutto sul bancario, su auto e sulle costruzioni. In Italia in particolare la fiducia ha portato a un calo dello spread sotto 120 punti base, a rendimenti ancora in contrazione, e per questo le banche sono andate molto bene. Eh sì, 118 punti in questo momento lo spread, la differenza di rendimento tra i titoli italiani e i titoli tedeschi a 10 anni. Bene, oggi anche World Duty Free, come si diceva, più 5,6, Buzzi Unicem più 5,6 altrettanto, bene Finmeccanica. Sì, Finmeccanica ha sfruttato oggi questa indiscrezione sul fatto che il gruppo possa tenere aperta l'asta in corso per le sue divisioni trasporti, nello specifico Ansaldo Breda e Ansaldo STS, per attendere la seconda offerta da parte dell'accordata cinese guidata da Insigma. Questa offerta è alternativa all'altra asiatica presentata a Hitachi. Naturalmente il mercato scommette che questi tempi un po' più allungati siano propedeutici a un'operazione fattibile e soprattutto a dei valori importanti, per questo il titolo sale. Senti Andrea, per staccarci un attimo dagli industriali, tra un attimo arriveremo a Fiat, e per rimanere sui bancari, dei quali abbiamo già parlato in apertura, appunto, quasi tutti bene, anzi tutti benissimo, se forse si fa eccezione per Monte dei Paschi, che guadagna l'1,34% rispetto ai rialzi degli altri bancari, non è oggettivamente un rialzo molto forte. Qualche ascoltatore ce lo chiede, ci sono motivi particolari per i quali, oltre i soliti naturalmente, per i quali Monte dei Paschi non va come gli altri? Sì, no, non c'è un motivo specifico che riguarda Monte dei Paschi oggi. Naturalmente c'è una cautela maggiore da parte degli investitori per quei titoli, per quelle società che a breve dovranno mettere in campo operazioni importanti. Se vediamo, un discorso molto simile si può fare per Banca Carige, che oggi ha guadagnato solo 0,5%, mentre tutte le altre banche, diciamo così, regionali di minore dimensione hanno risposto molto bene al traino arrivato dallo spread e dai rendimenti e guidato da Intesa San Paolo. Sì, ci sono alcuni titoli tra i bancari che non vi ho dato, anche di grossi, come Mediobanca più 5,13, Unicredit più 4,7, insomma ce ne sono parecchi. Fiat si diceva più 5,18%, supera la soglia degli 11 euro ad azione, 11,17 per essere esatti, che sono cose che non si vedevano da parecchio. Sì, certamente Fiat sta vivendo un momento, diciamo così, magico, almeno in borsa. Dal cambio di denominazione, la doppia quotazione a Wall Street, il titolo ha guadagnato circa il 60%, viaggiava intorno ai 7 euro il 13 ottobre, quando ci fu l'avvio, diciamo, della nuova fase Fiat Chrysler a Piazza Affari. Adesso ha superato gli 11 euro. Chiaramente l'accelerazione che il gruppo sta dando alle varie operazioni propedeutiche allo spin-off di Ferrari stanno dando molta appeal al titolo, anche perché chiaramente gli azionisti Fiat Chrysler avranno in mano poi azioni anche Ferrari, e questo sta costituendo un elemento importante di attrazione per il titolo, oltre ad alcuni buoni dati di immatricolazione che sono arrivati in settimana. Veniamo all'altra parte del listino, partendo direi da Saipem, che oggi lascia giù un 6,24%, e qua pesa ovviamente la vicenda South Stream. Sì, ieri sera è arrivata la notifica della sospensione del progetto del gasdotto South Stream. Saipem, ricordiamo, aveva comunicato nei giorni scorsi di non aver avuto alcuna informazione o notifica ufficiale. Adesso l'ufficialità c'è, il progetto è per il momento sospeso, ma chiaramente da qualche giorno tutti gli analisti e gli investitori stanno facendo i conti del possibile impatto. C'è stata anche un'intervista dell'amministratore delegato proprio con il Sole 24 Ore che iniziava a fare i conti del possibile impatto di uno stop di South Stream. Adesso che c'è la sospensione, è chiaro che il mercato vede come concreti questi numeri al ribasso. Certo, complessivamente mi sembra non particolarmente positivo il lusso. Vedo Moncler che cede l'1,5, Tod's l'1,07, Ferragamo che guadagna solo lo 0,87%. Debole il settore, mi pare, no? Oggi non è una buona giornata, è da qualche giorno che stiamo vedendo un lusso piuttosto debole. Oggi sono arrivati anche risultati da Prada non entusiasmanti. In questa fase effettivamente sembra che il mercato abbia qualche incertezza sul comparto e stia puntando più su altri settori. Grazie ad Andrea Fontana di Radio Core Il Sole 24 Ore. Un'ultima notizia prima di andare nella pausa per il giornale radio. Oggi nella Global Resort guidata da Andrea Bonomi ha annunciato il rilancio su Club Med a 24 euro per azione, il prezzo che Bonomi metterà sul piatto dopo il ritocco a 23,5 della cordata rivale che fa capo ai cinesi di Fosun. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco per parlare del rapporto Censis dopo il GR. Focus Economia. Buonasera da Simone Spezia. Ancora sugli appalti ci state scrivendo al 349-238-6666. Daniele, una bella storia perché non è la sola. Consigliere comunale nel Bresciano ci dice: mi sono stati negati i bilanci di società partecipate e vari accessi a curiose spese del comune. Se non ricordo male, sono fatti che erano già avvenuti a Roma per quanto riguarda soprattutto alcune spese in passato, quantomeno. E Mario ha ragione quando ci scrive: i dati della pubblica amministrazione non sono noti perché fa comodo così, almeno a molti fa comodo così. Abbiamo parlato nei giorni scorsi delle soluzioni di una serie di crisi aziendali, soprattutto di una delle acciaierie speciali Terni. Come sapete ne rimangono ancora molte di crisi aziendali da risolvere. Ed è ancora stallo per esempio sul futuro dello stabilimento Ideal Standard di Orcenico, provincia di Pordenone, che è chiuso ormai da mesi. La proprietà la scorsa settimana ha rotto le trattative al Ministero dello Sviluppo Economico con Ideal Scala, che è la cooperativa di lavoratori che vuole subentrare nella gestione dell'impianto. Il direttore di Confcooperative Pordenone, Marco Bagnariol, intervistato da Livia Zancaner. La trattativa è un po' complessa perché era stato precisato nell'avvertenza del Ministero del Lavoro per la concessione della cassa integrazione che Ideal Standard avrebbe favorito la rinascita del sito industriale, favorendo qualunque processo ci fosse stato di reindustrializzazione. I lavoratori con la costituzione della cooperativa si sono dichiarati disponibili a ripartire nel processo di reindustrializzazione del sito di Orcenico. Quindi la cooperativa è in attesa di avere condizioni di favore, come promesso, come verbalizzato da parte della Standard. Ma queste condizioni di favore quindi cosa prevedono? Il minimo, le attrezzature, quella parte di impianti e di fabbricato necessari per ripartire. Ed è qui che la trattativa poi si è interrotta, cioè nella mancata definizione da parte di Idea Standard di queste condizioni di favore. Idea Standard dice sostanzialmente: le condizioni di favore noi le espliciteremo dopo aver visto il vostro piano industriale. Questa insistenza nel voler leggere a tutti i costi il piano industriale della cooperativa, che dire che sarà un concorrente è parola grossa, perché è un'impresa che nasce da zero. La vostra intenzione è di presentare il piano comunque? A questo punto la cooperativa presenta il piano anche per smontare eventuali alibi dovessero esserci rispetto al proseguo di tutta la trattativa. È stata inviata la richiesta di una lettera di riservatezza chiaramente sui dati a Idea Standard, quindi appena la cooperativa riceverà questo impegno di riservatezza dei dati, la cooperativa le trasmetterà il piano industriale. Restiamo in tema di industria italiana, perché ieri il Consiglio europeo per la competitività, riunito a Bruxelles, ha rinviato al prossimo semestre la decisione sull'obbligo di indicazione di origine controllata contenuto nella proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti. C'è il rammarico di Lisa Ferrarini, vicepresidente di Confindustria con delega per l'Europa, ospite questa mattina a Mix 24 di Giovanni Minoli. Che dispiacere, oggi è una giornata tremenda, una giornata allucinante. Niente, non è successo niente. È successo di peggio, che è stato posticipato il problema, la discussione alla presidenza Letta. Come sempre. Quindi vuol dire buttarla violentemente nelle ortiche. Certo. Un giudizio che Ferrarini estende a un po' tutta la presidenza italiana, almeno su questo fronte, sentiamola. È il governo che deve reagire, perché sono loro che rappresentano il nostro paese all'Unione Europea, e questo io sono francamente molto molto preoccupata. Cioè, lo sbilanciamento è fortissimo. L'Italia non è seconda a nessuno. Senta, questo bisogna che noi ce lo mettiamo in testa. Diciamo fra di noi e basta. Qualcuno non lo sa, non lo sa. Senta. O qualcuno dice di fare voci grosse, poi dopo si arriva là ed è finita la storia. E allora il suo giudizio sulla presidenza italiana in Europa su questa vicenda è negativissimo. È negativissimo, sì. Ancora altri esempi che ci arrivano dagli ascoltatori via SMS, ci arrivano da voi sul tema degli appalti e delle cose che avvengono, anche esperienze personali, come consigliere comunale che ci ha scritto prima dicendoci: mi hanno negato l'accesso ai bilanci delle partecipate del comune e alcune spese allegre che volevo controllare. Qualcun altro ci fa notare che anche a Cottarelli è stata negata la visione dei bilanci delle partecipate. Un ascoltatore invece che si chiama Massimo e che fa la gestione della manutenzione in un ospedale dice: mi chiedono un preventivo per cambiare un impianto idraulico adatto alle necessità, la portata era di 5 metri cubi al giorno, devo sostituirlo con uno da 100. Io gli dico: guardate, un impianto da 100 metri cubi al giorno è troppo, sarebbero soldi buttati. Poi scopre dopo 3 mesi di trattative che quello che deve appaltare i lavori ha un guadagno che aumenta di valore più è alto il costo del lavoro appaltato. Vabbè, se la metti così, per forza. Ci prendiamo una pausa, c'è il traffico e poi veniamo finalmente al rapporto del Censis. Focus Economia. Per aggiornarvi brevemente, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, sulla giornata dei mercati, perché appena chiuso la chiusura, vediamo la chiusura dello spread innanzitutto, con un differenziale di rendimento che si attesta a 119 punti tra BTP a 10 anni corrispettivi titoli tedeschi a 10 anni e un rendimento del decennale all'1,97% in una giornata complessivamente molto positiva, più 3,41% il FTSE MIB, più 3,15% il FTSE OSHER, con le banche che vanno molto bene. Veniamo alle note dolentissime, da quel che leggiamo, del rapporto del Censis. Più diseguaglianze, meno integrazione, ceto medio corroso, questi gli effetti della crisi. E il Censis nota anche che un paese come il nostro, dove la coesione sociale è sempre stato un valore, inizia a presentare problemi anche da questo punto di vista. Problemi incancreniti e rischi da banlieue parigine. Italiani vulnerabili, attendisti cinici. Paura di finire in povertà, dice il Censis. Italiani che dicono bado solo a me stesso. Il 60% ritiene che chiunque, che a chiunque possa capitare di finire in povertà. E c'è questo tema del capitale umano inagito e dissipato, dice il Censis. 8 milioni di persone non utilizzate, tra 3 milioni di disoccupati, 1.800.000 inattivi, 3 milioni di persone che pur non cercando attivamente un impiego sarebbero disponibili a lavorare. Per commentare tutto questo abbiamo in linea Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, non mi sembra di riscontrare nemmeno una nota positiva nel rapporto di quest'anno del Censis. No, francamente no, è tutto a tinte fosche, tutto a tinte negative, pessimistiche, decliniste e un po' depresse, diciamo la verità. Però credo che fotografi abbastanza bene qual è la situazione del paese, perlomeno qual era quella a cui si riferisce il rapporto, cioè dell'anno in corso ma sostanzialmente passato. Le cose rilevanti sono, ed è un classico del Censis, l'abbandono del ruolo delle parti sociali, dei corpi intermedi, in nome di questa ideologia della disintermediazione, che è quella che ha scelto di portare innanzi il governo Renzi, che però produce un free riding dei piccoli e grandi egoismi. Non c'è più un centro su cui gli interessi convergono e si compongono, che era quello della concertazione poi diventata dialogo sociale più o meno virtuoso, più o meno efficiente, ma ecco, adesso non c'è niente praticamente, e quindi c'è una disintegrazione e questa idea di fuga nell'egoismo, nella fuga vera e propria dal nostro paese e nell'abbandono di qualunque voglia di reagire. Questa è la cosa più drammatica. Cioè, nel momento nel quale, come sta facendo il governo, si bypassano i famosi corpi intermedi, come il sindacato, come anche le organizzazioni datoriali e non solo, e quindi il confronto anche sulla realizzazione dei provvedimenti si perde, in quel momento si perde anche, secondo il Censis, questa è la tesi, mi sembra di capire, quella coesione sociale che ci ha sempre caratterizzato, bene o male. Esattamente, quello è un asset immateriale, un'infrastruttura immateriale ma fondamentale per creare poi il moltiplicatore di fiducia, per creare il volano dell'attuazione delle decisioni che vengono prese, di comune o accordo o comunque in modo più o meno convergente. È fondamentale quel meccanismo di ripetizione diciamo così, della linea scelta al centro. Non voglio dire le cinghie di trasmissione o cose banali di questo genere, ma voglio dire un messaggio più pervasivo che arriva a tutti gli strati della società. Oramai quel meccanismo rischia di essersi inceppato e quindi c'è un rischio, come dicevo, del free riding, dei piccoli grandi egoismi, dall'altro del tentativo, che poi è quello che fa non a caso Landini e forse non solo lui, di far saldare la protesta operaia di chi perde il lavoro, di chi è legato ai temi del lavoro, dei diritti, della disoccupazione, con quella sociale per i diritti primari, che sono quelli della casa, di un minimo di vitale, di denaro per poter sopravvivere, dalla fame in poi, voglio dire. Ecco, sono in realtà ambienti che normalmente non si parlano e non dialogano. Invece nell'ultima fase di perseguimento del conflitto sociale di questo autunno caldo, questa saldatura c'è stata in diverse occasioni, e a questa aggiungisce anche la saldatura con la protesta degli studenti, e si crea una miscela che effettivamente può fare quel rischio banlieue di cui lo stesso Censi sta parlando, che ancora non abbiamo avuto, perché il rischio banlieue è una cosa molto più grossa di quella che fino adesso si è verificata nella nostra città. Sì, naturalmente abbiamo visto qualche episodio, qualche scontro naturalmente, ma niente ovviamente di quelle dimensioni. Bisogna vedere naturalmente se anche l'assetto sociale delle nostre periferie ha le caratteristiche per arrivare a qualcosa di questo genere. Non sono un esperto, ma mi sentirei forse di dubitarne, no? No, direi di no, per fortuna ancora no, la cosa è abbastanza sotto controllo. E poi lasciami dire, c'è una fiammella in verità che il Censis non sta notando, ma che è successa probabilmente dopo l'elaborazione del rapporto. Esiste, è vero, una stratificazione in tre zone del mercato del lavoro, quella degli inattivi e gli inoccupati, i disperati che non cercano nemmeno più il lavoro perché sono talmente sfiduciati che non ritengono nemmeno che valga la pena di cercarlo perché tanto non c'è. La seconda fascia è quella dei disoccupati, cioè quelli che l'hanno perso il lavoro e quelli che lo stanno cercando per la prima volta ma che comunque sono sul mercato a cercare un'alternativa, e la terza naturalmente sono quelle di chi il lavoro ce l'ha, più o meno precario, ma comunque un posto di lavoro ce l'ha. Bene, c'è un travaso, per così dire, ancora impercettibile, ma che sta durando da un paio di rilevazioni, tra gli inattivi verso i disoccupati, cioè si sta creando un meccanismo di aspettative forse un po' più positive, per cui la gente che prima era disperata e non cercava si è messa comunque a cercare. Questo sta creando l'effetto tiraggio, come dicono gli economisti, per cui aumenta il tasso di disoccupazione, ma nel contempo aumenta anche, in modo impercettibile purtroppo statisticamente ancora, ma comunque sta aumentando anche il numero degli occupati, con quella specie di dato contraddittorio che abbiamo visto nella rilevazione ultima, che ha segnato il massimo storico del tasso di disoccupazione ma ha anche segnato un piccolo aumento del numero degli occupati. Quindi tutti questi numeri, che apparentemente sembrano una contraddizione, potrebbero far pensare che il vento sta leggermente cambiando. Un'ultima domanda, Alberto, perché ci sono molti ascoltatori che ci sollecitano su questo, soprattutto in merito al ragionamento che facevi, quello sul capitale umano non utilizzato del quale parla il Censis, 8 milioni, Derita ha detto i nostri giovani vengono umiliati, no? Queste sono state le parole che ha utilizzato il presidente del Censis. Molti ci dicono, beh, insomma, per questo c'è anche qualcosa da scrivere complessivamente alla nostra classe dirigente. Gente. Beh, non c'è dubbio, i giovani purtroppo sono vittima di un patto sociale scellerato che ha coinvolto almeno un paio di generazioni, forse più di giovani, che hanno pagato con un'iperflessibilizzazione le rigidità del mercato del lavoro, che hanno pagato con un presunto patto sociale di solidarietà tra generazioni che li ha palesemente fregati sul sistema pensionistico. Solo recentemente la cosa si sta un po' rimettendo in carreggiata, ma il mondo delle ipergaranzie, che sono frutto di un eccesso di ruolo anche sindacale, e non lo dico contraddicendomi rispetto a quello che dicevo prima, lo dico in ragione di quello che dicevo prima, cioè tutto deve essere ovviamente razionale, anche il dialogo sociale, anche il ruolo dei corpi intermedi. Questa cosa ha indubbiamente creato una sfasatura nelle possibilità, nei diritti e nelle garanzie delle diverse generazioni. I giovani hanno pagato tantissimo, anche il fatto che, per esempio, non sono sufficienti le quote di investimenti, soprattutto pubblici, sul capitale umano, a cominciare dalla scuola ma anche nella ricerca. L'ultima rilevazione dimostra che nella ricerca quel poco che si fa, quell'1,36 di quota di ricerca sul PIL, per il 54% è fatto dai privati. Questo non va bene, nel senso, comunque anche il ruolo pubblico sulla ricerca dovrebbe essere molto più forte nell'organizzare massicci investimenti su nuovi driver di sviluppo, dell'innovazione e modernizzazione del paese. Questo non c'è, e costringe i nostri ragazzi migliori, tra l'altro, ad andarsene. Londra sta assorbendo 1.000 italiani al mese. e sono tutti laureati che vanno a fare magari anche mestieri da sottoccupazione, ma poi trovano anche sbocchi molto interessanti, molto remunerativi, molto di mercato, perché laddove il talento e il merito viene valorizzato, i nostri ragazzi sono bravissimi e vengono capiti. Grazie, grazie ad Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. C'è chi contraddice la tesi del Censis, anche per carità, a buon diritto. Non... qualcuno ci scrive: la coesione sociale in realtà non è mai esistita, non è che sta saltando, siamo un popolo di individualisti. E chi ci parla di classe dirigente, come vede, abbiamo cercato di rispondere. Naturalmente, ovvio, insomma, è un rapporto realizzato da un centro di ricerche sociologiche e quindi con un tasso di impalpabilità più forte rispetto a quello che vi potreste aspettare dai numeri dell'economia. Però interessante, perché cerca di restituirci la famosa fotografia del paese. Se ci riesco o no, poi naturalmente un altro conto. Grazie Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, grazie a Valeria Bernardi in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Noi ci risentiamo lunedì alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente. Focus Economia.